Bucarest, Radio Romania Internazionale. Amici di Radio Romania Internazionale, un'emittente aperta a tutti gli ascoltatori di lingua italiana, membro associato della comunità radiotelevisiva italofona, siete in ascolto del primo programma della giornata nella banda di 9800 kHz e su internet all'indirizzo www.rri.ro canale 3 in qualsiasi formato. Questo programma è disponibile anche on demand sul nostro sito. Trovateci anche su Facebook alla pagina Radio Romania Internazionale in italiano. Grazie e buon ascolto. Quotidiano parlato. Cominciamo con il notiziario. Buonasera da Adina Vasile. Passiamo subito alle notizie. Gli ortodossi aduniati, compresi quelli della Romania, paese a maggioranza ortodossa, celebrano oggi la più importante festa cristiana, la Pasqua. Nella messa della notte di Pasqua, il patriarca della Chiesa ortodossa romena Daniele ha sottolineato che la risurrezione di Gesù Cristo è fondamento della fede cristiana e la festa della risurrezione rappresenta la vittoria dell'amore compassionevole di Gesù sul peccato, sull'inferno e sulla morte. Il patriarca ha augurato a tutti i romeni pace, gioia, salute e redenzione. La squadra di calcio Steaua di Bucarest si è assicurata il titolo di campionessa della Romania, il 24esimo nella storia, con 5 tappe prima della fine del campionato. Ciò è stato possibile dopo che la sua principale sfidante, Petrolul Ploiești, ha finito in pareggio per 2-2 la partita contro CS Turnu Severin. Lo Steaua ha un avanzo di 16 punti rispetto al secondo posto e non può più essere raggiunta nel contesto in cui ci sono ancora in gioco 15 punti. In Romania il tempo resta caldo per questo periodo dell'anno, eccezion fatta per l'est del paese dove le temperature sono in lieve calo. Nel sud-est del paese e in montagna si registrano su certe aree piogge e fulmini. Le massime oscillano tra 19 gradi centigradi nel nord-est del paese e 30 gradi nel sud. Queste le notizie, grazie della cortese attenzione. Ben trovati, gentilissimi amici, ad un nuovo appuntamento con la rubrica Il Corriere degli Ascoltatori. In studio con voi Bogdan Chioranu. Eccoci nuovamente insieme, carissimi ascoltatori, al solito appuntamento settimanale dedicato al dialogo con voi. Iniziamo anche l'edizione odierna con il ringraziare tutti voi per le numerose lettere ed email che abbiamo ricevuto in redazione questa settimana. Un sentito grazie a tutti gli amici di Radio Romania, i quali ci hanno fatto gli auguri di buona Pasqua. Cordiali saluti da Bucarest al nostro amico Francesco Morsilli di Terni, il quale ci ha inviato un suo rapporto di ascolto valido per il mese di aprile, accompagnato dalle risposte alle domande del nostro concorso Romania 85 e una bellissima lettera che abbiamo letto con tanto piacere in redazione. Non ricordo quando vi ho inviato per l'ultima volta una mia lettera, ma sicuramente sarà stato qualche anno fa. Dopo tanto tempo, cosa ho trovato? La mia cara e ben organizzata Radio Romania. Con tutte le sue rubriche, una più bella dell'altra, è perfettamente al passo con i tempi, ci scrive Francesco, il quale aggiunge che, citiamo, adoro soprattutto le rubriche culturali come Sfida al futuro, Terra e sapori, Agenda culturale. Ovviamente il notiziario è sempre un appuntamento fisso per capire come vedete voi il mondo. In conclusione alla sua lettera, il nostro amico Francesco ci fa sapere della nascita di Veronica, che, citiamo, è entrata a far parte della nostra famiglia un anno fa. Ci dà una gioia immensa poterla coccolare e starle dietro facendole scoprire giorno dopo giorno cose nuove. Ora è già cresciuta un po' e capisce già tutto. Presto le insegnerò ad ascoltare anche la radio e voi sicuramente non mancherete di esserci. Caro Francesco, ti ringraziamo per aver condiviso con noi questa straordinaria notizia e aspettiamo con molto interesse altri tuoi messaggi. Un abbraccio forte da Bucarest alla piccola Veronica e speriamo che ci mandi prima possibile un suo rapporto di ricezione. I nostri migliori pensieri vanno ad Agide Melloni di Imola, un altro amico di vecchia data di Radio Romania Internazionale, il quale ci fa sapere di aver ricevuto la nostra QSL. Conclude la sua email con la promessa che, citiamo, continuo a mantenermi in contatto con voi con piacere. Vi voglio un mondo di bene, ci scrive dal canto suo Gioacchino Stallone di Marsala, che salutiamo a nome di tutta la redazione italiana, mentre Massimiliano Scordamaglia ci scrive che citiamo, vi ascolto sempre ed ogni tanto mi piace farvelo sapere. Grazie mille caro Massimiliano per le tue bellissime parole di apprezzamento e restiamo in attesa di altri tuoi rapporti di ricezione accompagnati da messaggi o commenti. I più cordiali saluti a tutti gli amici del club di Ex che ci hanno mandato i loro rapporti di ascolto ai quali faremo pervenire prima possibile le tanto gradite cartoline QSL. Alessandro Ricchetti di Roma, Matteo Cremonesi di Tavazzano, Gianangelo Rosati, Osamu Aikawa dal Giappone, solo per farvi qualche nome. I nostri migliori pensieri vanno a tutti gli amici che hanno visitato la nostra pagina Facebook Radio Romania Internazionale in italiano. Ebbene, carissimi amici, ormai vi diamo appuntamento pure sulla nostra bacheca Facebook, dove potrete trovare tantissimi articoli e notizie interessanti sul mondo romeno degli affari, cultura, turismo, gastronomia, tradizioni, rapporti Romania-Italia, nonché condividere con noi i vostri commenti o suggerimenti che ci fanno sempre un grande piacere. Passiamo adesso a salutare tutti gli ascoltatori di Radio Romania Internazionale che hanno inviato le loro partecipazioni al concorso bandito di recente dalla nostra emittente e intitolato Radio Romania 85, dedicato appunto all'85esimo anniversario del servizio pubblico nel nostro paese, celebrato il 1° novembre prossimo. Ebbene, carissimi amici, eccoci arrivati alla fine dell'edizione odierna della rubrica Il Corriere degli Ascoltatori. Nei prossimi minuti vi lascio in compagnia del gruppo rumeno Holograph e della voce della famosa cantante romena Angela Gheorghiu. Sono Bogdan Chioranu e vi ringrazio sentitamente per la vostra attenzione. Alla prossima! Nu mai iubi, căci nu mai e timp să iubim. Nu mai e timp să ne amăgim, nu mai e timp nici să ne mințim. Nu mai iubi, căci nu mai e timp să iubim. Nu mai e timp să ne bucurăm. Sau din greșel să mai învățăm. Nu mai iubim, căci noi nu mai știm să iubim. Nu mai e timp să ne bucurăm. Nu mai e timp să ne mânduiem. Nu mai vedem. Thank you. State ascoltando Radio Romania Internazionale in italiano. Radio Romania Internazionale vi presenta un programma speciale, carissimi amici, dedicato alla luce della resurrezione che illumina in questi giorni il mondo cristiano, ortodosso e greco-cattolico, che celebra la sua più grande festa, la Pasqua, il 5 maggio. Quest'anno a parecchie settimane di distanza da quella cattolica e protestante del 31 marzo scorso. A tutti ortodossi e greco-cattolici, buona Pasqua e Cristo è risorto. E questo è anche il titolo della canzone che vi proponiamo nei prossimi minuti con Paula Selling. Delle regioni in cui le usanze pasquali e i costumi si conservano perfettamente in Romania e vengono tramandati da una generazione all'altra è la Bucovina, la contrada nel nord del paese, nota per i monasteri patrimonio dell'UNESCO, tra cui spiccano quella di Voronezh, nota anche come la Sistina dell'Oriente, per il suo affresco raffigurante il giudizio universale, ma anche quelle di Petrăuți, Humor, Arbore o Sucevița. A settembre quest'anno, nell'ambito delle celebrazioni dedicate al suo 85° anniversario, Radio Romania, su modello dei radio pellegrinaggi di Radio Rai condotti dal vice direttore Sergio Balzania, ai quali anche Radio Romania partecipa, realizzerà appunto insieme a Radio Rai un progetto editoriale dedicato alla Bucovina, un programma radiofonico itinerante in grado di recare un prezioso contributo agli scambi culturali e alla divulgazione mediatica delle informazioni riguardanti il ricco patrimonio storico, culturale e paesaggistico di questa parte dell'Europa. Nel 2012 Radio Romania ha partecipato al progetto della Via Francigena del Sud, Roma-Gerusalemme, promosso da Radio Rai e dalla comunità radiotelevisiva italofona, e quest'anno camminerà anche sulla via Tolosana insieme al vice direttore Sergio Valzania. E non dobbiamo dimenticare che il 5 maggio in Italia viene celebrata anche la quinta giornata nazionale dei cammini francigeni, quindi una bella coincidenza con la Pasqua ortodossa. Siamo andati a trovare per via delle onde padre Gabriel Hera, il parroco della chiesa di Petrăuți, in provincia di Suceava, costruita nel 1400 1487 dal principe moldavo Stefano il Grande, che regnò dal 1457 al 1504. La chiesa Santa Croce di Patrauz è il più vecchio luogo di culto conservato tra quelli fondati dal principe. È anche la più vecchia chiesa ortodossa monumento UNESCO in Romania, nel cui patrimonio è stata inserita nel 1993 la più vecchia chiesa costruita in stile moldavo e anche la chiesa con i più antichi affreschi interni ed esterni della Moldavia. Su iniziativa di padre Gabriel Herea e della moglie Anca, nell'estate del 2007 è stato aperto un museo dovuto allo sforzo finanziario della famiglia del prete. Successivamente anche altre persone hanno appoggiato il progetto. Su una superficie di 150 metri quadrati il museo custodisce una collezione etnografica e religiosa. Praticamente è stato ripristinato l'interno della casa parrocchiale dei secoli XVIII-XIX e che la visita può vedere come vivevano i preti a quei tempi, come pregavano e come incontravano i fedeli cristiani che venivano a chiedere un consiglio. Padre Gabriel Herea ci ha parlato in un collegamento telefonico del significato delle feste pasquali e ha spiegato come si preparano gli abitanti della Bucovina ad accoglierle. Non dobbiamo dimenticare mai che la festa della resurrezione del Signore, la settimana delle passioni, sono l'opportunità eccezionale che la Chiesa ha conservato e ci offre per ricordare la morte e la risurrezione accanto a Cristo. Essere cristiano significa morire e risorgere insieme a Cristo. Questa settimana è proprio quel momento dell'anno in cui ripercorriamo storicamente questa realtà. I cristiani si preparano tramite la Quaresima di 7 settimane e si preparano non solo tramite il digiuno alimentare, ma soprattutto tramite preghiera, meditazione e ricordo. Il ricordo è il rinnegamento di tutto quanto c'è male per sentire il desiderio di unirsi a Cristo. Il Venerdì Santo nelle chiese ortodosse viene allestito un tavolo sul quale è distesa una tela raffigurante il lamento di Cristo. Tutti i cristiani, dai più piccoli ai più grandi, passano per 3 volte sotto il tavolo, il che significa la discesa nel sepolcro di Cristo. Nella notte della resurrezione tutti faremo il giro della chiesa con i lumi accesi per poi cantare «Ieri mi sono sepolto insieme a te, Cristo, oggi risorgo insieme a te il risorto». La Bucovina è nota in particolare per le sue uova pasquali dipinte e come si conservano le tradizioni. La Bucovina ha le sue peculiarità che vengono da un retaggio storico molto valoroso. Quello che oggi chiamiamo la Bucovina, parte della provincia di Suceava, è praticamente il nucleo medievale della Moldavia. Nel XV e XVI secolo ha raggiunto un apice economico che ha portato alla costruzione di valorosi edifici che si sono conservati fino ad oggi e alcuni sono patrimonio mondiale dell'UNESCO. Oltre agli edifici, dei vantaggi ne ha avuto anche la cultura, poiché successivamente, nonostante le difficoltà della storia, le tradizioni popolari sono sopravvissute. Nella Bucovina odierna sono identificate tracce della cultura medievale e della convivenza tra diverse entità etniche, soprattutto dopo l'annessione della Bucovina all'impero austro-ungarico. Le uova dipinte sono una caratteristica dei Monti Carpazi in questa zona, e che ho visto persino in Moravia, e direi che le più belle sono quelle della Bucovina romena. E prendo lo spunto in questa affermazione da paragoni fatti dal desiderio di elaborare, perché no, anche un lavoro scientifico ad un certo momento riguardante i simboli raffigurati sulle uova dipinte lavorate con tanta finezza del motivo e del simbolo. E parlo del modo in cui vengono abbinati i simboli agrari, metafisici e la pastorizia o zoomorfi. Al solito sono abbinati così che arrivare a leggere un uovo dipinto diventa abbastanza complicato e devi esserne pratico. Le donne che le lavorano non dicono di dipingere le uova, bensì di scriverle. Un uovo si scrive, ha una storia di vita e una storia cosmica. E il messaggio pasquale di padre Gabriel Herea ai connazionali. Auguro a tutti di godersi pienamente la Pasqua e di avere nella vita privata la benedizione della risurrezione accanto a Cristo. E concludiamo, carissimi amici, dopo questa bella intervista al padre Gabriel Herea, il parroco della chiesa di Patrauz in provincia di Suceava, che ringraziamo ancora una volta per la gentilezza e l'appoggio a Radio Romania. Concludiamo quindi il nostro programma speciale dedicato alla Pasqua ortodossa con una bellissima canzone delle bellissime voci bianche del gruppo Bim Bam, una canzone pasquale. Grazie per essere stati con noi e buon ascolto. Partecipare al nuovo concorso a premi intitolato Radio Romania 85, dedicato appunto all'85esimo anniversario del servizio pubblico nel nostro paese, celebrato il 1 novembre prossimo. La società romena di radiodiffusione, ovvero Radio Romania, è il leader di mercato nel paese con oltre 4,7 milioni di ascoltatori al giorno a livello nazionale e una quota di mercato complessiva, reti nazionali e regionali, del 30%. 85 anni fa, il 1 novembre del 1928, alle ore 17, andava in onda la prima trasmissione radiofonica ufficiale in Romania. Oggi Radio Romania Internazionale è orgogliosa di appartenere alla grande famiglia della radio pubblica del paese. Per annoverarvi tra i vincitori, seguite i nostri programmi, visitate il sito www.rri.ro e le nostre pagine su Facebook, Radio Romania Internazionale Italiano, Twitter e Flickr, e rispondete correttamente per iscritto alle domande del concorso entro il 30 giugno 2013, bollo postale attestante. Il gran premio consiste in una vacanza di 10 giorni, vitto e alloggio compreso, per due persone dal 15 al 24 settembre 2013 in tre zone della Romania coperte da alcune reti regionali del servizio pubblico nelle province di Gorj, Timiș e Cluj. Il concorso è sponsorizzato dalla società commerciale Boca Junior di Timișoara. I partner del concorso sono i consigli provinciali di Gorj e Timiș, l'associazione Cluj-Napoca 2020, capitale europea della cultura, il comune di Cluj-Napoca, le filiali provinciali di Cluj e Gorj dell'Unione degli Artisti Figurativi e l'associazione degli artigiani popolari di Cluj. Come al solito, le spese di trasporto fino a Bucarest saranno a carico dei vincitori. Ci saranno inoltre tanti premi in oggetti legati alle tre zone ricordate, offerti dai nostri partner. Eccovi le domande: quando è andato in onda il primo programma radiofonico ufficiale in Romania? Qual è la quota di mercato del servizio pubblico di radio in Romania? Nominate almeno tre emittenti di Radio Romania. Chi è considerato il padre della radiofonia romena? Scriveteci entro il 30 giugno che cosa vi ha spinti a partecipare e soprattutto perché ascoltate i programmi di Radio Romania Internazionale o perché seguite i suoi contenuti online agli indirizzi Radio Romania Internazionale via Generale Bertlot numero 6064, Rione 1, Bucarest, Romania, casella postale 111, codice di avviamento postale 010165, fax 00402131905 62, email ital@rri.ro. Dopo il 15 luglio sapremo chi sono i vincitori. La redazione italiana vi augura in bocca al lupo. Qui Bucarest, Radio Romania Internazionale, punto finale al primo programma in lingua italiana. Riascoltateci alle 18 ora italiana nella banda di 5910 kHz e su internet all'indirizzo www.rri.ro, canale 3 in qualsiasi formato. Vi invitiamo anche su Facebook alla pagina Radio Romania Internazionale in italiano. Aspettiamo i vostri messaggi all'indirizzo Radio Romania Internazionale, casella postale 111, via Generale Bertlo 6064, Bucarest, Romania. Telefono 00 40 21 303 12 08, 303 1308, fax 00 40 21 319 0562, email ital@rri.ro. Grazie per essere stati con noi e a risentirci.